a far colera ti sta chiamando. Ma probabilmente non è qua. Perché intanto si sposta Luca, hai fatto uscire. Allora ti capri due. Quindi buonasera a Falconero, non è che io mi posso dedicare molto a parlare, capito? Anche per non dire qui c'è freddo, ho capito il caso già, come ne sono a letto, c'è la copertura elettrica da casa. Salutoni Falconero, per il sentito qui già di capo 2, che super cordializza e ti rimette il cambio. Avanti Falconero, se mi hai ascoltato. Ho già ricapito, ma la copertina elettrica qua lo ti curi, che accesa la lascia? No, la spengo già, cos'è, ma può dare fuoco alla cosa, no, quando me ne entro la sacco già, ma è sensato che hai capito, se ne sono sentite la copertina elettrica, no, quando prima di entrare a letto la sacchiamo già, quindi ti iniziamo a bene, basta un po', sono filo duro e muori combinato, ti ha pagato, fa quello arrostito che ci rimane. No, io l'ho sempre odiato con le cose, ho paura che vediamo qualche cosa. Io non so con che criterio l'hanno fatta questa copertura elettrica, come faccio a non pigliare a fuoco sempre. Avranno isolata sicuramente, ma riscaldo a volte, la voglia di surriscaldare, solo il calore è come risalto, vero è? Oh, Falcone. Ti ascolto, un po' le tue reme, insomma, ti ascolto. No, c'è la copertura elettrica, quando eravamo bambini, avevo 11 anni, mia sorella, 6, che è un po' di differenza, dai. Mamma si era permessa alla barba una delle coperte, beh, dopo quando è iniziato a lavorare, la vita stessa, meno male che hai capito, affidato c'è la bucata già. Ma se l'immagine, come si chiama, avrebbe fatto un cortocircuito con differenza, perché anche se a Cuba c'è un po' di militari male sempre, meno male che proprio se ne ha colpo. Ma come fai? Non la lavi mai? No, già, quella lì non è buttata sotto la coperta, capito? È pulita, pulitissima, hai capito? No, non è da lavare già, no, quella lì, ma prima che c'è l'umidità, poi tu avessai, se ti uscita lì, quella di fili, già, se scalda, c'è delle resistenze che sono lunghe, non lo so, a scaldare così, è una cosa pericolosa, già, no? Non è che mi scaldo il letto, vabbè, però fino a staccata, e devo pensare, guarda, non sono fatti manco a passarsi in un tratto umido. Io ho un altro metodo già. Prima di andare a letto, prima di cambiarmi, prendo il pigiama e lo metto sul termosifone e me lo infilo caldo, e così il caldo ce l'ho lo stesso. Poi il pigiama è dentro il letto adesso, il pigiama c'ho dentro il letto l'altra cuffia e a quando entro è caldo, capito? Me lo metto già caldo, è dentro il letto il pigiama. E quando fai il letto, io faccio buttare il pigiama dentro, o della parte mia, poi quando apro me lo metto è caldo. Luca, ci sei? Ehi, un attimo, sto commentando, scusa, perde l'Inter 3-0 con la Juve. Ho vinto o perso? La coperta elettrica serve per vedere chi si piscia a letto, perché rimane fulminato. Quello è capito. E anche quello già, quando c'erano i bambini piccoli, quando appena nati, diciamo, sai che di solito qualche volta ci ricordi che eravamo nel letto, ho capito, perché per il bambino piccolo c'era più vicino, un rischio anche già, come mi giravo di scattarlo, e la coperta, hai capito, allora non la mettevamo manco, cioè, scherzando, a volte come stanno dicendo Pasco, o Mero, sotto il coro, ma non rimane qua. Hai capito mai? Sotto il balcone era mobiliato. Vabbè che non lo scappano mai, perché non sempre quello ce la prego mai. No, siamo il pannolino, capito però mai. Invece gli altri ma è pisciato in letto, come erano piccoli mari. Yeah. E poi avvisavano subito, come mi iniziavano a andare soli, parlavano, avvisavano, e quello ce la fregano già. Hai capito? No, niente, adesso questa roba, diciamo, se non ho aperto la coperta elettrica già, è grazie al primo approccio, vedrete, come quando vai a mare che ti devi buttare in acqua. Io le ho sempre temute queste cose, dico la verità, non le ho mai fatto. Il pigiama sopra il termosifone, ma nel filo caldo e via, e fatelo io. Prima che il termosifone già non ce n'è, poi c'è la stufa giù sempre, che già l'ho applicato, già la stufa a legna nel tubo, non come si chiama di quello la tua che era roba, ma si può tenere i viti durante... Però niente, già tranquilla, sotto la casa quando parlo a letto, però già, c'è anche come si chiama, che si potrebbe tirare poco il tetto, anche, ho anche pensato già io la notte, questa roba che c'è la casa già mi giro, mi ha detto, quando mai che mi posso accavallare qualche filo, qualche cosa, che quello ho pensato già. Io... sono un po' contrario, poi ognuno la pensa come le pare, non è che... Antonio mi sembra che sia tanto... Io, buonasera, sto saldando, dai vi ascolto. Comunque io lo uso più di una volta, mi sono svegliato, penso completamente inzuppato perché dal sudore, proprio perché me la dimentico accesa. Però c'ho il nonno e la coperta, è quello che c'è sotto. Madonna. Qualche volta me la sono dimenticata, sì, ma sono abbastanza sicure, dai. Ehi, sempre l'elettrico, c'è sempre, non è che sicura, no, ne va proprio, io ce la sacco, voi, si riguarda, ma pazienza, capito, però intanto quando ho letto le sacco la Cina, riprendi il palco vero. Ho entrato Antonio Grobbe, presentire. E ok, ma adesso sto andando un po' più grande, sto andando un po' più grande, dipende, posso anche aumentarlo la radio, però non glielo tiro il collo, fa come, capito? Perché poi magari mi senti tu e fai saturazione, riprendi già. Via. Ma dove ce l'hai qui? C'è qualche campagnolo o Falconi? Dalle parti di Muros. Sarebbe questa ponte di pietre, fammi capace. lo spezzone con i due pile maschi, no? Per collegare il qualsiasi di apparato. Ah, ho capito. Asciugavi il... ho capito. Andare. Che cosa ci vuole a farlo? Sono una cazzata. C'è l'attore, e via. Infatti è quello che sto facendo. Cos'è che ti stavo dicendo? Ma ascolta, passiamo in FM, perché non passiamo in FM se ce l'abbiamo tutti quanti? Che si sente un attimino meglio, c'è meno fruscio e si sfottano meno le radio. Ma io qua è tutto pulito, non so se sono fruscio. Zero QRM, nulla. Sì, ma i segnali più deboli, sto dicendo, si sentono un po' frusciati, capito? Io sono d'accordo, se gli altri sono d'accordo non c'è problema, andiamo in FM. No, io già vado a letto, scusa, sono le 10, hai capito, domani mi si deve passare presto, hai capito, no, ora ti devo fuggire perché era ancora attaccata la radio, no, mi scurico subito già, perché ho passato molte frutta ieri e niente, c'era stato sabato, magari domani si può lavorare, domani c'è un sacco da fare, magari a che cosa domani, il nostro signor mio. Ok, vi saluto cordialmente a Gianni, Antonio, a Falco Nero, a Luca e tutti gli amici. No, lo accendo così, insomma, perché era ancora attaccato. Ok, niente, faccio me stacco tutto, ve lo faccio sparire da come si chiama, perché l'ho usato tutto per farlo funzionare tra ieri e oggi, però non so se con questa radio. Ok, vi saluto tutti e adesso finire, riprendi già per girare io. Ciao Caffè 2, ci sentiamo. Buonanotte, a domani. Avanti, Antonio, cosa abbiamo deciso? Passiamo o no? Passiamo o no? No, dai, se anche Falco Nero c'ha l'FM non c'è problema. Ciao Capri, buon 144, buona giornata per domani, siete tre, ci sentiamo più presto. Ciao ciao, dai, andiamo in FM. Falco Nero, FM ce l'hai? Aspetta, perché non passi? Ero uguale. Veramente lo stavamo facendo per te, perché ti sentivamo meglio se passavamo in FM. Io quando ti arrivo. Vabbè, sono tre con due. Cosa ha detto? Quanto? Non so come un pene, si può fare dire cosa c'è di me un pene. Guarda, fa sta pompata. Dai, Antonio, rimaniamo qui, io già lo sento bene, non è che... Tu come l'ascolti a far con lei? Abbastanza basso, adesso forse mi sente un po' meglio anche lui, dai. Come lo senti tu a Grobler, Falcone? E avanti, avanti, avanti. Non ho capito niente. E vabbè, forse apri che sono la Siri. Uso di cosa? Di Monserrato. Faccio parlare lui così, perché forse per non disturbare. Quanto ti stavo dicendo? Dunque ha detto zona Monserrato, lui è Monserrato. Via l'Italia in fondo, dove c'è il fornitore, ce l'ha presente? 731 può andare verso Cagliari, in queste gallerie, dipende da dove vuoi andare, anche a Olbia. Esatto, c'è la Conad adesso lì. Faccio apposta, lui infatti va bene per le zone due esame, la zona dell'altra parte. Arrivederci a me, ohia, non sono il primo. Ma chi so se sei arrivato su Metropoli? Ma perché se non sto parlando lontano dal microfono? Se parlo così si sente, come se si sente? Aspetta un attimino che adesso ti metto il turbo booster, lo vuoi il turbo booster? Ecco il turbo booster, così vado in compressione, guarda un pochettino, ora, 1, 2, 3, prova. Cosa che ha detto che ce l'hai più forte tu, non ho capito. Ha detto che più o meno si è arrivato col segnale mio, solo che la mia voce è più chiara. So, perché già mi c'è la voce più alta della frequenza. Aspetta che abbasso 2 secondi, così mi senti anche me. Abbassiamo anche il mic gain. E dovrebbe andare un attimino meglio. Mic gain, eccolo qua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dovrebbe andare bene così. Lo puoi dire, mi chiamano Gianni il Caldo. Gianni il Caldo. Non ne ho bisogno di confortarmi. Maggio Rubenizoma io. Lui. Maggio pure Leopardacci, se ti piace. A chi non batto io? Qui a 4 novembre, perché c'è meno concorrenza adesso. Oni, a chi prima avvia, le avano venuto più. E allora siccome c'è poca concorrenza, lui. No, una voce a passare con fulano la madre di una amica mia aspettando il traccio ferma questo gli fa quanto va bene e lo sciocchi gli è venuto. Dimmi una cosa Falconero, ma tu sei di Zeus o di Zennari? Lo so purtroppo. Ma c'è ancora la Giacomeccanica, produttore. Il Falconero. Falconero. Per me. Allare, o Falconero. Tu sei di Zennari e di Giusso. Di Giusso. I famigli di Gussini. Ah, non sei Gesù, sei Zennari, sì. Ma come la si mangia, mi dice Gesù, sì, che voi? Dov'è di solito il segno, lì già? So. Dimmi una cosa, ma lo conosci, signor Pala? Signor Pala, il torronaio. Sì, è una persona in gamba, che è panettiere anche. Oh, te lo sto dicendo io, non era una domanda, era un'affermazione. Ti sto dicendo che è una persona in gamba. 65 anni, 60 anni forse, dai. No, perché io ne conosco un altro di Torrona, io che porta il pane. Esatto, è il signor Pala. Ma non c'ha 65 anni, quello che conosco io fra, sì e no, 40 anni e 4. No, allora non è lui. Che paga, questi panettieri ci danno da fare. Poveraggio, questo qua non è un lavoratore, tu immaginati che finisce la serata e dopodiché parte a fare a panificare. Un sacrificio. Già finisce tardi, poi davanti alla presso deve fare panificare lui. Ma è colpo suo. Come cosa? Come tornaio, sì. Come panettiere lavora una cosa là? Credo di sì, non l'ho mai capito, ma Falconero sicuramente ne sa di più. Come? E siccome ci stavamo chiedendo se il panificio non è il suo, lavora per altri, no? Ho capito, comunque è un'impresa da famiglia, dai. Scusatemi un attimino, finisco di fare una saldatura, riprendi Gianni un attimino, che finisco. Ma come mai non si è sentito Marco? Si è addormentato. Intanto ieri notte sono alle 5 di mattina, guardando i baracchini, non vedo, sarà sonnato. Falcone. Siamo tutti qua, c'è Antonio Grode, io e tu, poi c'era anche Luca, non so se abbia smesso di rispondere a su Facebook, avanti. Io intendo, basso basso, ma così, attenzione, attenzione, nelle curve, la villella. Senti che mi sta mancando la voce. Come mai? Sono giovane. c'è questa tosse, io non ho dormito un cavolo, questa tosse secca, ti manca anche il respiro. Quando sono dovuto andare correndo a prendere un bicchiere d'acqua perché mi stava mancando il respiro. Secca, asciutta, tienici di luce. Lo so, la tosse secca non è buona, quindi a seconda di quanto dura ti devi far controllare. Aspetta che faccio quest'ultima saldatura, ragazzi, che c'ho. Se non riesco a collegarmi in parte della stazione. Aspetta, vediamo in diretta. Un attimino. Il problema è bloccarli questi piedi quando li devi saldare. A proposito, se vi servono PL buoni, cioè Fusaro li stava vendendo a un prezzo un po' eccessivo, però sono di quelli in bacchilite, quelli che gli puoi dare vatte senza che si brucino. Sì, io ce l'ho, io ne ho comprato 10, quando ce li avevo, li ho comprati anche a Massimiliano Archimede, che eravamo al baracchio, che stavano a comprare bene, mentre se ci sono quelli in bacchilite, comprami neanche 9 a me. Ne avevo fatti fuori tutti io quelli che c'avevo. Quelli con la bacchilita marrone, lo so, quelli bianchi non ci venivano a nulla. Si sciude quando vai a saldare, si gira tutta la c***a. Quanto li sta dando? 1,50. Aspetta che sto saldando 2 secondi, se no butto benzina. Uff, mi sto respirando anche tutto il vapore del piombo. Ancora, aspetta. Morsetta di quelle piccoline, anche quelle piccoline e basta, di quelle che si avvicinano al tavolo e trastigni. Se tu non hai quello, tieni fermo e più. Io ce l'avevo, l'ho dato a fanculo. Servono sempre quelle mosse. Guarda se provvedo, è così. Aspetta che non l'ho fatto bene, mi è uscito un pochettino, mi è uscito col buco dentro. Evidentemente c'è questo stagno, è troppo fine. Adesso lo sto rigirando 2 secondi, che se non riesco a bloccarlo in una posizione dove glielo posso accollare dentro. Aspetta un attimo. Perché tu lo devi mettere verticale prima, farlo scendere un po' giù e poi fare la tua finale. Io faccio così. Quando lo stadio c'entri dentro, capito? Lo metti dritto, metti una goccia, poi lo metti dritto di nuovo, lo metti orizzontale e rifai la tua finale. Giù, giù. Alto, buonanotte, dai, io sto chiudendo. Ci sentiamo, ciao Luca, grazie a tutti gli altri amici che sono all'ascolto. Quello ti per me, dai. Yeah, ciao Gio, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao a tutti, buonanotte, anche ora a dormire, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Luca, ciao.